Alessandro Milan. Ma che cazzo è Alessandro Milan? Boh. Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Eccoci qua, cari ascoltatori. Voi non ci crederete, ma questa presigla è una delle quali a cui sono più affezionato. Ci siamo con Uno Nessuno 100 Milan, una nuova puntata. Saluto subito Luca Cremonese, che affianca il nostro Alpino in regia, e insieme alla nostra redazione Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli. Eccolo qua, il reduce è arrivato, ha tagliato il traguardo. Mario Calabresi, non più in sella. Ciao, buongiorno. Non più in sella. Come stai? Bene. Una sgambata hai fatto di 3 giorni. Esatto. Ricordiamo quanti chilometri da Torino a Nembro? 281. Però, 281. Non è male, dai. Sì. Dai, non è male. Eppure, sentite, tranquillo, rilassato, come se avesse bevuto un bicchiere d'acqua. Ale, dai. No, ma soprattutto non sono mai andato in bicicletta prima. Ecco. Siamo così. Vabbè. Però sei arrivato a Nembro e, cari ascoltatori, se eri, come dire, nel luogo che è diventato la notizia, almeno oggi, se aprite i giornali, c'è tutta questa vicenda della convocazione da parte dei magistrati di Bergamo del Presidente del Consiglio, e non solo il Presidente del Consiglio, di pezzi importanti del governo. Comunque ne parliamo subito. Vai, Alpino. Enthusiasm about the future. Allora, intanto, giusto così te la dico, ma perché è una notizia uscita da poco, ogni tanto pizzichiamo queste notizie, come ogni tanto accade, 'Ndrangheta, beccati 37, che non ho capito perché si definiscono sempre furbetti, più che furbetti andrebbe usato un altro termine, 37 ndranghetisti che avevano il reddito di cittadinanza, notizia che arriva da Gioia Tauro. Più che furbetti ci vorrebbe il solito urlo che il nostro Alpino adesso vi manda. Maledetti! E questa l'abbiamo archiviata, Mario, l'abbiamo archiviata così. Ogni tanto escono e vabbè, insomma, ci sono, si sa, la criminalità si butta dove c'è il denaro. Allora, Mario, sei stato a Nembro. Adesso mi interessa capire il clima, come si vive tutto questo momento. Nembro è questo paese che sta all'ingresso della Val Seriana ed è il paese in percentuale più colpito che ci sia stato in Italia. Naturalmente Bergamo è un luogo dove ci sono stati più morti, però questo qua è un paese di 11.500 abitanti che nel periodo dalla fine di febbraio al 30 aprile, sostanzialmente in 2 mesi, ha avuto 187 morti. Per darti un'idea, lo scorso anno nello stesso periodo sono stati 27. 187 vuol dire che in un mese sostanzialmente quasi 2 cittadini ogni 100 sono morti di coronavirus. Mm-hmm. E il punto qual è? Che lì c'è stato il contagio e, come sappiamo, c'è un'inchiesta, perché mentre si chiuse tutta la zona del Lodigiano, qui ci furono sollecitazioni a chiudere Alzano e Nembro, Alzano il paese prima, dove c'è l'ospedale ad Alzano Lombardo, dove si è propagato il focolaio. Si disse di chiudere, poi però in un balletto, di cui poi parleremo, tra regione e governo, si rimpallarono le responsabilità, non si chiuse, e il fatto di non avere chiuso in tempo e di avere isolato quella zona viene considerato una delle cause del contagio, del grande contaggio nella Bergamasca, e quindi le morti che ci sono stati dopo. Il termine balletto, guarda, oggi Sergio Rizzo su Repubblica usa il termine scarica barile. Io non vorrei adesso, purtroppo il passato un po' insegna, non è che tutte le volte che si mette in campo la magistratura non si arriva a nulla, anzi, assolutamente. però il passato insegna che in altre inchieste simili o comunque nelle quali si punta poi alle responsabilità di altissimo vertice, entra in campo la magistratura, cosa dirà Conte? Beh, intanto sentiamo l'audio, però... come ha risposto una giornalista. Senti Conte. Le cose le dirò al pubblico ministero, come persona informata sui fatti le dirò al pubblico ministero, non le posso anticipare a lei ovviamente. Riferirò doverosamente tutti i fatti di mia conoscenza. Vabbè, non ha ovviamente detto moltissimo. Qui ci sono però delle cose. Non siamo di fronte ai misteri d'Italia su cui bisogna ricostruire. Ci sono leggi, ci sono stati documenti di allarme che sono stati fatti. C'è stato a un certo punto il direttore sanitario dell'ospedale di Alzano che ha chiuso l'ospedale perché si rendeva conto che stava andando sotto controllo. La regione gli ha richiesto di aprirlo. E noi dobbiamo capire in quella... diciamo, i magistrati devono capire in quel rimbalzarsi le responsabilità e in quelle delibere che non venivano fatte a chi avesse questo dovere e chi ha omesso di fare qualcosa che poteva salvare. Ma è proprio qui il termine dell'eventuale scaricabarile, perché il procuratore di Bergamo una decina di giorni fa, commentando un'inchiesta, una breve dichiarazione, ha detto: a quanto risulta a noi magistrati la responsabilità di chiudere, di fare la zona rossa, compete al governo. Ma Conte ha fatto sapere più volte, penso lo dirà il magistrato, che in realtà la regione, in base alle vecchie leggi, potrebbe autonomamente farlo. E capisci che allora non c'è un bianco dato. Io penso una cosa, io voglio sottrarmi, come non siamo stati epidemiologi oggi, siccome non abbiamo le carte davanti, io dire ma sì, uno o l'altro, non ne ho idea. C'è un punto però che Conte, in quello che filtra oggi sui giornali, che probabilmente il suo portafoglio ha fatto sapere ai giornalisti qual è più o meno la sua linea di difesa, dice: ma noi stavamo per chiudere tutta la Lombardia, a quel punto non si è chiuso quello. Questa cosa qua mi ha fatto venire un brivido nella schiena, vivendo a Milano. Cioè l'idea era: ma quindi che chiudiamo tutta la Lombardia, che si contagino all'interno della Lombardia. Ma perché è stato... Il fatto di avere chiuso Lodi per quell'area ha fatto una differenza fondamentale. Io mi chiedo davvero, qui c'è, questo qui è un punto, noi abbiamo tante altre cose su cui si dibatte, perché non erano attrezzati gli ospedali, perché non c'erano i reagenti, perché non abbiamo preso in tempo le mascherine e i dispositivi di protezione personale, però questo qui è un punto fondamentale: perché non è stato chiuso e bloccato quell'area, quel focolaio non è stato chiuso? E noi col senno di poi, sapete, è molto difficile, perché quelli erano anche i giorni in cui sia a Milano che a Bergamo si diceva: ma no, siamo più forti del virus, con un ottimismo che era anche in un certo senso una resistenza di dire: no, ma il virus non ci piegherà, che però oggi ci siamo resi conto col senno di poi che è stato disastroso. Però sbagliato. In questo caso ci sono i documenti di medici ed esperti che dicevano: bisogna chiudere. Quindi ma allora, c'è un fatto a cui bisogna dare una risposta. Queste domande credo che se le facciano anche i primi cittadini che sono parenti delle vittime concrete. Ti posso dire una cosa, però, scusa, l'ultima. Io ieri che sono arrivato a Nembro ho incontrato sia Don Matteo Cella, che è il giovane prete dei cinque sacerdoti di Nembro, l'unico che non si è ammalato e quindi quello che ha tenuto in piedi, diciamo, tutta la parte della chiesa, ma anche dell'assistenza. Lui ha organizzato i ragazzi dell'oratorio che consegnavano, siccome non usciva più nessuno, consegnavano loro a casa la spesa a tutti, un gruppo di ragazzi dell'oratorio. E poi ho incontrato anche il sindaco. Loro sono e il gruppo di ragazzi dell'oratorio che c'era lì quando sono arrivato nella piazza del comune insieme al sindaco e a Don Matteo, praticamente tutti hanno un nonno o uno zio o una nonna che è morto durante l'epidemia. Però loro sono non così interessati come lo possiamo essere noi di questa inchiesta. Sono molto più interessati a come quel paese può provare a ricucire questa ferita e andare avanti, come ripartiamo. Perché dice la quantità di angoscia che abbiamo addosso e di morte che abbiamo addosso richiede che questa comunità dia una risposta forte di ripartenza. Stanno cercando di organizzare una cosa quest'estate, di incontri all'aperto, di campi estivi, tutti con tutte i distanziamenti e tutto il resto, però perché non si sentano soli, sono stati troppo soli. Ci sono invece domande che i parenti delle vittime si fanno. Voglio salutare Luca Fusco, che è un commercialista di Brusaporto, provincia di Bergamo. Buongiorno Fusco e grazie di essere buongiorno, qui. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Lei presiede questo comitato, noi denunceremo. Avete depositato i primi 50, credo, esposte alla Procura di Bergamo per avere delle risposte. Esattamente, intanto ci vuol raccontare la sua storia personale, se vuole, e poi che cosa chiedete alla Procura di Bergamo? Sì, beh, la mia storia personale forse è una delle più leggere durante l'epidemia. Mio padre aveva 85 anni e era in un centro riabilitativo, speravo di averlo salvato dal virus proprio portando in quel centro riabilitativo, invece il virus ormai era già in giro, era il 24 di febbraio, per cui era una pia speranza quella di riuscire a bloccare la cosa. Il discorso è che noi ancora il 23 febbraio in queste zone non avevamo esattamente la percezione che fosse arrivato qualcosa di estremamente devastante. Perché l'informazione comunque era sempre un'informazione, diciamo, tranquillizzante. Non c'è problema, sì, abbiamo chiuso Codogno, sono due infetti, però abbiamo circoscritto la zona e quant'altro. Il discorso fondamentale è che, come dicevate voi, non riusciamo a capire perché sono passati 15 criminali giorni da quando sono stati trovati i primi due infetti a Nembro e Alzano, a quando finalmente si è deciso di chiudere. Oltretutto, questo è il punto su cui bisogna fare luce, cioè esatto, chi esatto. aveva la responsabilità di poter intervenire 15 giorni prima. Ecco, questo è il esattamente, anche perché le conseguenze non sono state conseguenze per la Val Seriana o per l'Interland di Bergamo. Le conseguenze sono diventate molto più ampie, nel senso che in quei 15 giorni una zona estremamente abitata, estremamente industrializzata, estremamente interconnessa con l'industria internazionale, si è mossa. I cittadini sono andati, sono mossi, hanno viaggiato, hanno ricevuto merci, hanno spedito merci. Per cui in effetti la chiusura di Nembro e Alzano ritardata di 15 giorni non solo ha causato poi il problema lombardo, Bergamo, Brescia, Como, Mantova, Sondrio, ma dal mio punto di vista e dal nostro punto di vista ha creato anche i presupposti per un lockdown nazionale pesantissimo, sì, con tutte le conseguenze economiche e sociali che non abbiamo probabilmente Vediamo. Ancora visto. Senta, ma voi avete identificato degli spunti di eventuali responsabilità da indagare, oppure avete lasciato, come dire, ai magistrati ampia facoltà di stabilire tutto? Allora, oppure noi vi siete fatti un'idea che avete indicato? Noi nasciamo come gruppo Facebook per mettere in atto una specie di spur river di quello che era successo, perché non potevamo riunirci, non potevamo confrontarci, questa era una zona di guerra, noi sentivamo solo ambulanze, campana morto. Abbiamo deciso di costituire questo gruppo che a oggi conta 65.000 persone. Dal gruppo è nato il comitato e continuano a traghettare persone dal gruppo al comitato che depositano nient'altro che il loro racconto su Facebook, okay, vagliato okay dagli avvocati, chiaramente, perché un esposto deve avere delle forme. Ci tengo a precisare che nei nostri esposti non ci sono accuse puntuali. Noi raccontiamo no, ci sono, quello che è successo. Ci sono racconti con date, esattamente. Quindi le date, in questo caso io sono importanti. Io ho parlato con il procuratore di Bergamo e ho rinnovato la nostra totale fiducia e ho rinnovato la nostra totale stato di attesa, perché ci rendiamo conto che l'indagine prima di tutto è nuova, è un'indagine che non è mai stata fatta da questo punto di vista, sì, sì, e soprattutto sarà difficilissima e la procura avrà bisogno di serenità e tempo, per cui noi sì daremo alla procura Mario serenità e tempo. Hai qualche curiosità, Mario, su questa vicenda? No, lo ascoltavo, ha ragione sulla serenità e tempo, inutile che a questo punto quello che è accaduto è meglio fare chiarezza bene, tanto anche quello che è accaduto non serve a niente cercare di fare una caccia alle streghe in breve tempo. Il giustizialismo non ci serve. Noi saremmo felici di raggiungere la verità. Poi che la giustizia faccia il suo corso, a noi non importa che la gente vada in galera, non ci interessa. Non ci interessa e non ci interessano i risarcimenti. Però accertiamo, perché se qualcuno ha il potere, il contrattare è la responsabilità. Per cui a questo punto chi deve fare le cose deve assumere delle decisioni anche impopolari. E non nascondiamoci dietro un dito. Chiudere Codogno era probabilmente facile. Chiudere Nembrozzano era una grossa responsabilità, però un amministratore deve assumersi anche responsabilità grosse. Anche questo, certo. Esatto. Certo. Tu i giorni, esattamente, i giorni in cui, tra virgolette, c'è il balletto e non si decide, sono quella prima settimana di marzo, perché il comitato tecnico scientifico, quello della sanità nazionale, dice che vanno chiuse Alzano e Nembro, non mi ricordo se è il 2 o il 3 marzo. E una cosa interessante, per esempio, che racconta oggi Marco Imarisio sul Corriere della Sera, è che il 5 marzo, a Osio Sotto, a Verdellino, arrivano carabinieri, camionette, blindati, soldati, 100 poliziotti, 50 finanzieri. Nel senso, c'è tutto il Ministero dell'Interno aveva messo a disposizione tutti i militari e i poliziotti per fare quella cintura di controlli come quella che si è fatta. Che si era fatta prima a Codogno, e questi qui restano lì 4 giorni e poi non succede niente, non stanno a aspettare. Quindi vuol dire che qualcuno ci deve spiegare perché sono stati mandati e poi non è successo niente, perché questo qui è un dato, perché se tu hai infatti non a caso i magistrati chiamano il ministro dell'interno e chiederanno alla ministra: ma come mai lei ha disposto i militari, sulla base di che cosa? Quindi vuol dire infatti che oggi Marco Imarisio sul Corriere della Sera proprio dice questo, esatto, cioè questo è stato un po' come perché dire non è stata presa? Decidiamo anzi no. E queste sono le domande a cui si dovrà rispondere. Noi Luca Fusco la ringraziamo, ovviamente vi seguiremo in questa avventura se ce lo permetterà, vedremo questa inchiesta come andrà avanti. Ripeto, la storia in Italia è piena di inchieste che quando poi alzano il tiro dal punto di vista di istituzioni altissime poi non faticano ad arrivare a una conclusione. Io credo che sia doveroso accertare le responsabilità. È bella quella frase: di fronte al potere c'è il senso, cioè il potere ti conferisce anche la responsabilità di saperlo gestire, questo potere. Però Mario, adesso ti voglio fare sentire una voce. Viene un film celeberrimo, un film storico, film che evidentemente secondo la HBO adesso non può essere più proiettato. Allora, Alpino, c'è una voce che tutti riconoscerete di questo film, è la mitica Mami, vai. Se a te non importare buona reputazione, a me sì. Di avere detto e ridetto che vera dama in pubblico dovere mangiare poco, come uccellino. Così parlava Mami in Via col Vento, che adesso è diventato di colpo un film razzista, perché rappresenta insomma gli Stati Uniti nell'epoca sudista, dove il nero parlava così ed era poi la servitù nera. Non si può più vedere, cioè non si può più vedere, si potrà vedere, però l'HBO ha detto lo ritiriamo dal mercato. Per il momento l'ha tolto per decidere come comportarsi, con l'idea poi di metterci, come dire, avvertenze per l'uso prima del film. Quello che voglio dire una cosa, dice, non è che il film è razzista, attenzione, il film rappresenta un tempo, un'epoca e un'area degli Stati Uniti che era razzista, cioè il sud degli Stati Uniti aveva la segregazione razziale, era razzista, aveva gli autobus separati, aveva i bagni separati, aveva le scuole separate, quindi da questo punto di vista non è che dobbiamo dire ma allora era razzista, lo era. Il punto è: ma allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cancellare questi film, fare finta che non siano esistiti? Forse invece ci servono, così la penso io, a comprendere e a riflettere. Per capire. Cioè l'idea e che allora che adesso dobbiamo succede? Levare tutto quello che oggi noi siamo cambiati, grazie al cielo, ma dobbiamo levare tutto quello che c'era prima perché dobbiamo farlo sparire? No, dobbiamo essere adulti, maturi, vaccinati per comprendere. Come ben sai, negli Stati Uniti è il momento in cui si abbattono le statue dei vecchi commercianti che si sono fatti soldi grazie alla schiavitù, le statue di Colombo che avrà scoperto anche l'America, ma insomma è colui che ha portato l'Occidente, quindi ha portato, è stato l'iniziatore del genocidio delle popolazioni locali, evidentemente secondo chi vuole distruggere queste statue. Mi ricorda la furia iconoclasta dei talebani che hanno distrutto i Buddha di Bamiyan in Afghanistan. Beh, però anche al crollo dell'Unione Sovietica, se ti ricordi, tirarono giù tutte le statue di Lenin, sì, di Stalin, certo. E poi Ceausescu e Saddam Hussein e Gheddafi, infatti, esatto. La distruzione di una statua io l'associo alla fine di un periodo brutto di tirannia, quando si vuole, come dire, buttare giù un simbolo per liberarsene. E però poi ci sono i talebani e i Buddha di Bamiyan e adesso Colombo, Cristoforo Colombo. E poi Indro Montanelli, ti faccio sentire la celebre intervista in cui Montanelli ammise che durante la guerra in Abissinia con gli Ascari andò a sposare, comprandola, una ragazzina di 12 anni. Sentiamo la voce di Montanelli. Pare che avessi scelto bene, era una bellissima ragazza bilena di 12 anni, scusatemi, ma in Africa è un'altra cosa. E così l'avevo regolarmente sposata, nel senso che l'avevo comprata dal padre che mi ha accompagnato insieme alle mogli dei miei ascari, cioè queste mogli degli ascari non è che seguivano la banda, ma ogni 15 giorni raggiungevano la banda. Io non ho mai capito come facessero a trovarci. In questo infinito dell'Abissinia dove nessuno sapeva da me. Senti, la parte interessante arriva adesso, Mario, perché la giornalista incalza Montanelli su questa sua dichiarazione: 12 anni, ma in Africa si fa così. Senti, di aver avuto una sposa, diciamo, di 12 anni, e a 25 anni non si è peritato affatto di violentare una ragazza di 12 anni, dicendo ma in Africa queste cose si fanno. Io vorrei chiedere a lui come intende normalmente i suoi rapporti con le donne, date queste due affermazioni. No, signora, guardi, sulla violenza, nessuna violenza, perché le ragazze in Abissinia si sposano a 12 anni, lo non dice è questione. Lei. Quindi lui era su un piano di consapevolezza dell'uomo, insomma, il rapporto con una bambina di 12 anni e il rapporto con una bambina di 12 anni. No, se lo facessi in Europa riterrebbe di violentare una bambina, vero? Sì, in Europa sì, ma ecco, lì no. Sì, appunto. Quale differenza crede che esiste? E qui continua Mario uno scambio molto interessante, no, molto interessante, cioè con la giornalista che incalza, dice ma scusi 12 anni non in so Africa, chi sia sì. La giornalista, ma era molto brava a incalzare. Elvira Banotti. Sì, sì, sì. Sì. Però insomma e lo accusa di colonialismo, di violenza, di insomma dice in Europa sarebbe stata una violenza sessuale, insomma per questi motivi qualcuno dice andrebbe tolta la statua di Montanelli dai giardini Montanelli nel centro di Milano. Tu che pensi? Porta Venezia. Io penso che si debbano distinguere le cose, sentire questa roba ci fa caponare la pelle. Sì, sì. Detto questo, non ci può andare bene Montanelli a fasi alterne, perché poi assistiamo a questo spettacolo che Montanelli era diventato, piaceva molto a sinistra quando ruppe con Berlusconi ed era arcicritico con Berlusconi, aveva fatto la voce e fino all'ultimo ha duramente criticato Berlusconi, e dal mondo del centrodestra era considerato un rinnegato, un traditore, diciamo la verità, gli davano del rimbecillito. Ok? Adesso invece tornano fuori queste cose, vedi ieri Salvini e il mondo del centrodestra dice Montanelli un gigante, giù le mani da Montanelli, pezzi di sinistra dicono Montanelli va cancellato. Allora il problema è che non è che può andarci bene un giorno, può andarci un altro, ha una biografia complessa, è un uomo del Novecento, figlio di un'altra epoca, è un uomo cresciuto nel fascismo, non possiamo giudicarlo con le chiavi di lettura di oggi, possiamo dire e dobbiamo dire che sposare una dodicenne acquistandola dal padre è un'aberrazione, questo lo possiamo dire, però non dobbiamo dimenticare anche tutto il resto che ha fatto Montanelli, il tipo di giornalismo che ha fatto, e non dimentichiamo neanche che oggi si vuole togliere la statua, però io non posso non ricordare che nel 77 quelli che che detestavano Montanelli gli spararono alle gambe, lo ferirono gravemente, sopravvisse, ma fu un atto di terrorismo. Allora, le biografie sono complesse, questo vizio che c'è oggi, che è un vizio molto social, di giudicarle semplicemente da su un, episodio, un pezzo, secondo me è fortemente sbagliato. Quindi insomma, lunga vita alla statua di Montanelli per Calabresi. No, ma la questione è molto complessa. Ma stia lì, non è che, cioè, non è la statua di Göring, capito? Che allora uno dice, sai, leviamole. E ci sono anche tante cose. In questa furia iconoclasta che onestamente c'è negli Stati Uniti, io mi preoccuperei più di far sì che oggi l'accesso alle università, le disuguaglianze sociali, l'accesso al lavoro o le cure mediche per gli afroamericani siano uguali a quelle per la popolazione bianca, ok? Piuttosto che lasciare le cose come stanno e preoccuparci di cancellare i film o levare le statue. Preoccupiamoci del presente e del futuro e diamo un giudizio sulla storia, ma la storia non si cancella. Con la storia bisogna fare i conti. Sì, però è interessante, noi poi più avanti alle 10:15 avremo lo storico Franco Cardini per parlare, insomma, di capire se la storia può essere anche riscritta anche con questi gesti, come stanno avvenendo negli Stati Uniti. Certo, a volte sono gesti, magari chi lo sa se chi fa questo gesto conosce poi profondamente la storia, sicuramente si sarà informato, insomma. In ogni caso c'è anche un po' una rabbia incontrollata, però interessante il tema. Mario, noi ti salutiamo, allora domani in bocca al lupo, come lo dico a mia figlia, in bocca al lupo, in cura alla balena, tutte queste cose per l'esame di terza media della figlia, ci farai sapere, eh? Intanto un grande abbraccio, grazie, ci sentiamo presto, andiamo buona in pubblicità, grazie. 1, nessuno, 100 Milan. Il signor Calabresi ha detto che il direttore dell'ospedale voleva chiudere, ma la regione ha negato la chiusura. Devo dire che la colpa non è solo dell'amministrazione della Lombardia, la colpa è anche di Confindustria, del governo. Il problema di Nembro è stato Conte, è inutile che la girino o la rigirino. Quando la Lombardia aveva provato a fare qualcosa, Conte gli aveva detto di non provare a fare niente a livello regionale. La gente ha già deciso, ognuno ha già la sua soluzione, quindi l'inchiesta è chiusa, è stata colpa del governo, è stata colpa della regione, è stata colpa di Confindustria, per me è stata colpa di Leonardo Manera, cioè tutti hanno già la verità in tasca, ognuno ovviamente la propria, è stato Leonardo Manera che con le sue influenze che ha nei confronti del ministro della famiglia che si chiama Bonetti, ricordate che Manera è nome d'arte, lui si chiama Bonetti, chiaramente nipote del ministro della famiglia, Bonetti ha come dire influenzato le scelte di governo dicendo no, non chiudete la Bergamasca perché io devo andare lì a fare delle mie solite cose un po' lusche. Buongiorno. Bene, diffondi, beh, direi che sei nella tua linea consueta di diffondere le fake news. Insomma, tu sei un se noto sei nipote però del ministro news. Non è che ti devi vergognare. bene, diffondiamo non fa anche niente, questa... Non fa niente per la famiglia tua zia. Oggi la chiamo e glielo chiedo, zia Elena, perché non fai niente per la famiglia? Elena, che Alessandro Milan si lamenta di questa cosa e ci tiene, quindi anzi, magari se vuoi domani te la porto in trasmissione, va bene? Oh, va bene. Come stai Leonardo? Come stai? Ma sto bene, stamattina avrei voluto veramente collegarmi, ma... Infatti vedi che io non ho detto nulla, ma adesso che lo dici devo avvisare il pubblico che non troverete il video di Leonardo Manera. Ma spiego perché. Perché? Allora, perché? Mi ha spiegato Sandro Fortunato mi ha spiegato mi ha spiegato che serve Skype. Io ce l'ho Skype sul computer. Sì, te l'ha spiegato una settimana fa. Sì, ma mi è sparito Skype dal computer e non riesco più a trovarlo. Accidenti, ma davvero, ragazzi, c'era l'immaginetta, l'icona, c'era l'icona di Skype, ma porca miseria, che però non usavo almeno da un mese. L'hai abbattuta come una statua in America ieri, una furia iconovia. No, non vorrei, Skype, viene il dubbio di aver scaricato una versione temporanea che poi magari è sparito dal computer. Che scadeva ieri, infatti fino a ieri l'hai collegato in video, No. E quindi adesso rimedierò, cercherò di rimettere Skype e poi richiamerò Sandro Fortunato. Sandro Fortunati, rimetti gli Skype in un secondo e domani a questo punto non ci saranno più scuse, sarai collegato con noi via Skype. Io non sono fatto per la tecnologia, io sono un uomo del Novecento. Questo l'abbiamo sono capito. Più romantico. La stampante com'è? A posto? Ieri sera ha funzionato, ieri sera si è ripresa. Come ha fatto? Sta migliorando. Non lo so, ieri sera andavo. Cioè non faceva non più. Non so perché. Tac. Ieri sera ha ricominciato a funzionare. E dopo parte. E ieri andavo. Io non so. Io sono più romantico. Sono un uomo Sturm und Drang. Ecco. Così dell'Ottocento più che del Novecento. L'uomo Sturm und Drang, certo. Sì, sì. Sì, esatto. Va bene, dai. C'è Simone che si chiama da Lecco. Buongiorno Simone, eccoci. Sì, buongiorno a tutte e due. Niente, si parlava prima, adesso si apre l'inchiesta per capire di chi sono le responsabilità e tutto. Ma Conte lo disse in conferenza stampa che il compito di chiudere spettava al governo. A domanda precisa, se voi andate a guardare, io penso sia attorno al 24 maggio, io me lo ricordo bene perché ebbi una discussione con dei miei amici che già allora, quando erano arrivate le camionette, che noi abbiamo tutte le immagini, allora si diceva che c'erano delle industrie che stavano cercando di spostare i macchinari per non fermare la produzione, perché ci furono anche pressioni di Confindustria di allora, ci sono degli articoli soprattutto del presidente dei giovani di Confindustria, che non mi ricordo come si chiama. Però Conte lo disse in conferenza stampa. Sa qual è il problema? Se per questo c'è anche una dichiarazione in audio del procuratore di Bergamo, che è una donna, adesso non ricordo il nome, e sta indagando, cioè colei che ha l'indagine, che ai microfoni dei telegiornali ha detto: a quanto risulta a noi, la competenza spetta al governo di istituire una zona rossa. Ma c'è un ma, e nei ma si annidano poi sempre come il diavolo nella coda i dettagli. Ma lo stesso governo dice: è vero, spetta il governo, ma in base ad alcune leggi le regioni possono in autonomia farlo anche loro. Capisce che è la classica. È il classico arzigogolo all'italiana, che vuol dire spettava a noi, ma potevate farlo anche voi. A questo punto, di fronte a una fase del genere, lei in teoria a chi dà la colpa? Se io dico lo spettava a me, Alessandro Milan, ma poteva farlo in base alla legge anche Simone da Lecco. Chi ha ragione? Sì. O chi ha torto? Chi pagava? Più della Lombardia e chi paga che ancora oggi i soldi? Però, scusa, spettava il governo, ma la regione poteva farlo. Sì, ho capito, però se adesso non è per dire, ma se una cosa spetta in primis a un'istituzione e poi possono farlo anche gli altri, allora i primi responsabili sono quelli a cui spetta, cioè quella a cui è incarico in primo luogo la responsabilità e non in modo subordinato dal mio punto di vista. Vuoi risolvere l'Italia, che è il paese delle complicazioni, con una logica stringente, ma non è così. Mia. È il paese, come dici tu, della tua formula che tanto ami, si può. Ma anche no, forse no, è così. No, meglio di no, però sì, a patto che. Però insomma, se quello una cosa è spetta, l'Italia. Sì, però se una cosa spetta in primo luogo e poi c'è il secundis. Ho capito, ci sarà un avvocato che ti dirà sì, in primis a me, ma in secundis subordine tam quam non essent a te. Sì, e quindi la a me o a te. un ma po', la responsabilità un po'. Principale va in, primis, in capo a chi? Ma in secundis, certo, vostro onore, che... in secundis. Sì. Comunque sai che questa cosa del ma mi ricorda veramente tanti miei rapporti sentimentali di tante donne che mi hanno detto ti amo, voglio stare con te, ma... Ma anche cioè, ma anche no, non era il ma anche di Veltroni, cioè, voglio stare con te ma anche con lui e ma anche con l'altro, no, non ma anche, vorrei stare con te ma c'è quel problema, ma c'è quella difficoltà, ma è il ma, è il ma è il grande problema. Comunque, della vita alla fine, no? Le giustificazioni di Manera, arriva un ascoltatore, sono patetiche, scritto in maiuscolo, patetiche, ovviamente del fatto che non è in video. C'è Gian Pietro da Bologna, però. No, no, sono patetiche. Mi è sparito Skype. Patetiche. Patetiche. Gian Pietro, Bologna, eccoci. Buongiorno. C'è una lente di ingrandimento sul computer. Fai cerca, si chiama cerca. Fai cerca, l'ho Skype. Fatto, poi ridiamo. Gian Pietro da Bologna. Vai nel cestino. Buongiorno, Gian Pietro, buongiorno. Allora, niente. Senz'altro sentivo la vostra trasmissione, la seguo abbastanza spesso, sì. E la trovo sempre interessante. La questione è che, diciamo, l'argomento principe anche in questo momento, anche oltre alla pandemia, è l'aspetto, diciamo, quasi insurrezionale negli Stati Uniti in principal modo, ma anche vediamo in altre città del mondo. Ecco, l'aspetto secondo me non è solo un aspetto razzistico, un aspetto è anche un aspetto sociale, ma anche un aspetto di una logica, che è quella del mondo, quella capitalistica, quella del mondo, dove la logica, lo sentivo prima nell'intervento anche di prima, la logica del profitto impedisce di magari prendere le misure che sono magari all'aspetto sanitario, perché prima dice ma se prendiamo queste misure sanitarie blocchiamo tutto, poi l'economia che fine fa? Domanda legittima, però senz'altro in un sistema dove... Non è che adesso abbiamo stabilito che è stato questo, la logica del profitto a far prendere delle decisioni, ma l'ha stabilito lei, Gian Pietro, io non... No? È una riflessione che faccio io da un punto di vista che nell'ambito, vediamo anche i 40 milioni di disoccupati negli Stati Uniti... È un concetto dove non c'è una società che si basa sui bisogni della gente, ma sulla logica del profitto e del capitale. Ecco. Allora, cioè, anche niente. Lì il problema è il capitale. Guarda, io di fronte ho il centro sociale, dove abito io, c'ho il centro sociale, è apparsa questa scritta sul centro sociale, questo striscione: quando finirà il capitalismo andrà tutto bene. Io ogni volta passo, sì, sorrido e dico vabbè, c'è chi la pensa così, per carità, lei forse la pensa così. Sì, ma io sono un delegato sindacale della FIOM di Bologna e non sono, sì, e non sono uno di centri sociali. Con tutto, no, rispetto, vabbè, per i centri, che c'entra, sociali, che c'entra. Però il discorso, vediamo, se c'è, per esempio, noi abbiamo fatto una manifestazione qui a Bologna dove c'è un'azienda con centinaia di famiglie, di lavoratori, mm-hmm, e quindi relative famiglie, che la multinazionale svedese, in questo momento, dove non si dovrebbe licenziare, fare nulla, in questo momento c'è ancora un po' un blocco, licenziare, ha deciso dalla Svezia che quello stabilimento Bologna, anche se fa utili, non è più funzionale, e quindi mi trasferisco tutto a Torino e chi vuole andare a lavorare vada a Torino. Ecco, questa è la logica del mercato, Gian Pietro, del profitto. Sì, oppure se lei ha la pazienza, la invito a riascoltare il podcast di 2 giorni fa quando abbiamo avuto il professor Ichino, giuslavorista, a contestare non questa teoria specifica che lei è legata a questa multinazionale, ma la teoria del lavoro legato al luogo, perché Ichino dice, guardate che dati ANPAL ci sono 1.200.000 posti di lavoro per i quali non ci sono i lavoratori. Non si trovano i lavoratori, e allora dice Ichino, invece di inseguire i giusti drammi delle persone, delle famiglie, quando chiude un'azienda, a dire cosa facciamo di questi 200 lavoratori, troviamo il modo, e c'è, di riqualificare questi 200 lavoratori per fare in modo che vadano a intercettare quel 1.200.000 posti di lavoro che ci sono. Invece di dire salviamo l'azienda o manteniamo aperta l'azienda, è una questione di, come dire, di cambiare totalmente la prospettiva, detto che sono vicino al dramma di chi perde il posto di lavoro, però se, c'è un, se il lavoro c'è da qualche altra parte, non geografica, ma in qualche altro settore, facciamo in modo con politiche attive di riqualificare quelle persone che purtroppo si trovano nella condizione di aver perso il posto di lavoro. Questa è la teoria di Ichino. Comunque la ringrazio per la sua testimonianza. Prego. Lo dicevate anche prima insieme a Calabresi, comunque, che chiudere dal punto di vista produttivo Codogno era più semplice che chiudere magari Nembro. Sì, sì, dove c'è una società estremamente produttiva che si sposta tantissimo. Andiamo al traffico, poi Uno, nessuno, 100 Milan. Somebody wants told me the world is gonna roll me. The sharpest tool in the shed. Vira Banotti era nata in Eritrea, quindi sapeva bene di che cosa parlava quando intervistava Montanelli, e lo intervistava così come troppo spesso oggi i giornalisti non sanno fare. Ma soprattutto in Africa funziona oggi ancora così, ancora oggi vendono le figlie. Cioè, diciamo la verità. Il ritiro del film Via col vento, mi sono messa a ridere, davvero. Ma su Montanelli ho riso un pochino meno, molto, molto meno, una cosa... Ma non ci sono parole. Devo dire che effettivamente sentire Elvira Banotti che intervista Montanelli anche a me ha fatto pensare molto a come si conduce un'intervista senza arretrare di un secondo, anzi incalzando. Pensa se lo facessi oggi a un politico, e devo dire che almeno Montanelli rispondeva, cioè non è finita in rissa come finirebbe adesso, cioè entrambi mantenevano delle posizioni molto molto nette. Nessuno arretrava di un passo, in questo caso Montanelli sbagliando evidentemente, perché non è che si può dire si può comprare una dodicenne perché in Africa è così, come se fossero in Africa, come dire, inferiori. Però c'è un'intervista, devo dire, stile British, come ci sono sulla BBC, dove ci si danno cazzotti, tra virgolette, verbali, però non è che per questo uno si alza, se ne va, dice allora, cioè nessuno fa il garosio, ecco. Non mi interrompa, abbandono lo studio con queste sue domande inadeguate, ha capito, io non l'ho interrotta mentre parlava lei. Lei non mi citi a sproposito, attenzione, la denuncio, è già pronta la querela, arriva la querela. Arriva un messaggio, dica. Anche a mia madre sparisce sempre Skype, Gianluca da Bergamo, vabbè, a te il microfono, Leonardo. Allora, ascoltavo questa mattina, appunto 24 mattina, ascoltavo Simone Spezia che raccontava... Come fortunati, 24 mattina, come fortunati. Allora, ascoltavo 24 mattina, dove Simone Spezia raccontava di un'ordinanza della regione Abruzzo, secondo la quale per giocare a calcetto non si può recuperare la palla attraverso contrasti di gioco causa coronavirus. Deve essere probabilmente allora l'avversario che ti cede palla quando tu gentilmente gliela richiedi. Ecco, fino a qualche tempo fa si diceva che niente sarà mai più come prima, forse ci si riferiva al fatto che nel mondo nuovo, dopo il coronavirus, avremmo visto una serie di stupidaggini fino a poco tempo fa inimmaginabili. Forse si ipotizza un mondo educato, per legge, anche nello sport, niente tackle, scivolate, marcature asfissianti in area, ma un calcio educato dove si marcherà a zona nel vero senso della parola, cioè si sta in zona, ma senza avvicinarsi troppo, e dove però in cambio gli attaccanti non fanno mai tiri troppo potenti per non dispiacere e non far male al portiere. Si può segnare solo tirando piano e poi dopo, per scusarsi, al portiere si dà un fiore. Unico problema per questo tipo di calcio educato è che ovviamente alla fine non ci si può stringere la mano, perché la stretta di mano potrebbe trasmettere l'odiato virus, che è così grave, ma così grave, che al momento pazienti gravi non se ne trovano più. Però è vero che in un mondo educato anche un mal di gola fa dispiacere, quindi meglio evitare ogni possibile patologia, anche un semplice ma maleducato mal di gola. Regole educate, leggo, anche in discoteca, dove a quanto pare le nuove regole prevedono che si possa ballare, sì, ma tenendosi a debita distanza uno dall'altro, un paio di metri. Non più quelle calche maleducate dove dopo aver bevuto un paio di drink ci si strusciava uno sull'altro come preliminare per rapporti completi ma maleducati nei bagni del locale. Ora per legge sono previsti solo balli educati, ognuno lontano dall'altro e perché no, io inserirei qualche decreto di PCM, ordinanza regionale, ecco inserirei anche l'obbligo di un abbigliamento adeguato, non più pantaloni strappati o minigonne inguinali. Le nuove regole devono per forza prevedere anche una certa eleganza come un ballo d'altri tempi, banditi ovviamente anche rutti maschili da birra che potrebbero disturbare un ambiente così educato. Giusto a quel punto inserire anche un paio di steward che indichino il linguaggio e il comportamento più consono per evitare multe che in caso contrario potrebbero essere rapidamente comminate. Io giuro che non ne posso più di queste regole senza senso, non ne posso più di quelli che parlano già della seconda ondata, non ne posso più di quelli che con terrore dicono che il virus è ancora tra noi. Per forza il virus è ancora tra noi, sono migliaia i virus che sono sempre tra noi, sono migliaia i virus con i quali conviviamo ogni giorno ma senza che creino troppi danni. Si prendono e si guarisce, oppure si prendono e stanno lì, silenti, educati, come uno che gioca a pallone con te ma non si avvicina troppo per non farti male, per non creare disturbo. Invece ogni giorno ci sentiamo dire il virus sarà ancora tra noi, con tono preoccupato e preoccupante. Sì, il virus sarà ancora tra noi per sempre, come quelli che si divertono, chissà perché, a spaventare e a fare terrorismo, ma probabilmente creerà sempre meno problemi. La differenza è che il virus al momento è ancora tra noi, ma non crea quasi più danni. Quelli che parlano così invece di danni ne creano a ripetizione. Forse più che il virus andrebbero curati loro nell'interesse generale del paese. Il tutto ovviamente lo dico con grande educazione e senza nessun contrasto verbale, soprattutto fisico, che potrebbe naturalmente creare danni gravissimi al nostro corpo. Le nostre menti invece purtroppo loro le hanno già danneggiate in modo forse irreversibile. Bravo, bravo, niente te che l'anche a me ha molto colpito. Dai, andiamo al giornale radio, poi parleremo della vicenda Paul McCartney, Sir Paul McCartney contro l'Italia e contro i voucher e poi le statue abbattute con lo storico Franco Cardini. State con noi. Il segnale orario vi è offerto da Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. Uno, nessuno, 100 Milan. Ma guardate che forse non avete capito bene, cioè in Veneto non è che si è chiuso tutto subito, perché la maggior parte delle realtà produttive importanti sono rimaste aperte. Quello che è stato fatto in Veneto è di gestire il sistema sanitario, cioè con le strutture sanitarie, in modo adeguato, quello che non è stato fatto in Lombardia. È questa la rogna. Caro Manera, se ti è sparita l'icona non significa che non hai più Skype, basta che tu vada nelle applicazioni e lo trovi. L'icona a volte per sbaglio la poi si toglie, però rimane sempre. Sempre che tu non sia andato nelle applicazioni e abbia tolto definitivamente Skype, ma non credo sia così. Prova. Mamma mia, ragazzi. Oh, è bello, io amici, sono molto grato. Amici. Oh, io sono molto un grato. Uomo antitecnologico, sì. Io. Io sono molto grato agli ascoltatori che mi aiutano a risolvere i miei piccoli problemi di vita quotidiana. In questo senso la radio mi è utile. Grazie, grazie alla signora. Solo in questo senso, ne hai altri problemi esatto. Che vuoi. Hai altri problemi che vuoi. Quelli più personali, privati, di altro tipo. Adesso non voglio far caricare la radio anche dei miei problemi personali, però di questi tecnologici sì, volentieri. Va bene. Oggi non voglio essere amaro. No, che cosa vuoi che ti dica di amaro? No, dipende, dipende cosa potrei dire di amaro oggi. Per esempio potrei dire che è un periodo che non riesco più a dormire bene di notte. Io vorrei riposare bene e anche mi addormento abbastanza facilmente, devo dire. Mm-hmm. Ma poi a una certa ora sovvengono i pensieri e comincio a pensare a tutta la mia vita passata, che ormai comincia ad avere un certo peso. E ripensando alla mia vita passata, a come ero prima, ai rapporti andati più o meno bene, alla caldaia che funzionava e al computer da quale non sparivano le icone, ecco, pensando a tutto questo non riesco più a prendere sonno. Amici ascoltatori, allegria! Va bene, signori, Sir Paul McCartney ha parlato e sono parole che pesano come pietre contro il governo italiano e contro la possibilità di dare dei voucher per tutti coloro che hanno comprato un biglietto a un loro show, era il programma Lucca e a Napoli, e che invece ora vengono rimborsati con un voucher invece che i soldi. Senza i fan non ci sarebbe musica, ha detto Paul McCartney. È veramente scandaloso che coloro che hanno pagato un biglietto per uno show non possano riavere i loro soldi. Punto. Fine. Silvio Telesca, ciao, ben ritrovato. Silvio, ciao, ci aveva Alessandro, mandato buongiorno. Per primo un messaggio accorato che poi è diventato un fiume di mail di persone che sono accodate a dire abbiamo comprato il biglietto, vogliamo il biglietto. Guarda che forse domani riusciremo ad avere il promoter che torna con noi, era tornato a parlare con noi il promoter. Devo dire, Paul McCartney si scaglia soprattutto con chi ha permesso con una legge questa cosa, più che contro i promoter, o no, si diciamo dice... Che... Sì, no, no, ma è corretto, è corretta la cosa. Ovviamente se non ci fosse stato questo decreto scritto con l'accetta, certo, gli organizzatori non avrebbero avuto nessun appiglio, che comunque chiaro. È evidente, fermo restando che comunque non è mai stato un obbligo, come diceva il signor D'Alessandro, tant'è vero che un promotore stesso che voi avete anche intervistato e anche il Teatro Sistina in Roma, sì, ha deciso di rimborsare in denaro. Sì, è un'opzione, però nel momento in cui tu mi dai un appiglio di legge, io appunto questa opzione la posso sfruttare, ecco. Non è una giustificazione, però dico, no, come dire, è una scelta. Sì, però insomma è ovviamente, io ricordo l'intervento del signor D'Alessandro la trasmissione del maggio, quando ho intervistato da voi, onestamente certo, si era ampicata sugli specchi, perché non c'è nessun tipo di giustificazione a una cosa del genere, anche perché il cachet di Paul McCartney non è stato pagato, perché è stato l'autore, è stato proprio Paul McCartney ad annullare il concerto. Verosimilmente certo, un concerto di una persona che è vicino agli 80 anni, un organizzatore grosso come può essere la Galli D'Alessandro si tutela con un'assicurazione, una polizza assicurativa. Inoltre possono anche bastare i soldi pagati a novembre per un concerto di giugno, e quindi parliamo di 8 mesi, di circa 10-12 milioni di euro più o meno, come, come soldi anticipati per poter lucrare anche un interesse bancario. Io immagino che ora come ora gli interessi sono bassi, ma se tu poi metti sul piatto un 10-12 milioni di euro, almeno un 2% una banca te la dà? Facciamo un certo, po' di conti, certo. Direi che ecco, sì, sì, no, ma comunque insomma diciamo che questa dichiarazione di Paul McCartney per voi taglia la testa al toro, cioè per voi è tutto quello che voi aspettavate, esatto. Sì, sì, no, soprattutto anche perché Franceschini ieri è intervenuto anche direttamente dicendo che il voucher non è ammesso per un concerto annullato. Quindi diceva che il voucher era ammesso soltanto per i concerti spostati o procrastinati a data. Sì, qui c'è il grande inghippo, Silvio, l'avevi raccontato l'altra volta. Cioè, McCartney ha annullato il concerto prima dell'emissione della legge, del decreto Cura Italia, esatto. Però, come dire, si è teso questo Cura Italia per dire va bene, allora ci appigliamo al Cura Italia. C'è settimana di latenza. C'è stata questa settimana in cui uno invece di dire concerto annullato, ecco i soldi, attendiamo una settimana e vediamo come tira il vento. È arrivata la legge. È un po' una melina fatta ad hoc, sapendo che arrivava. Sì, tu la chiami una furbata. D'Alessandro ci dice è una cosa perfettamente in linea con la legge, con le norme. Sai che in Italia, insomma, c'è sempre una norma, sì, evidentemente, no, certo, non sempre, la cosa importante è che adesso dopo le dichiarazioni di Franceschini, che ovviamente il governo non si può tirare indietro con una dichiarazione del genere, che l'emendamento vada a correggere il decreto, perché è stato veramente chiaro, ha detto il concerto annullato, e Paul McCartney ha chiaramente detto che lui non dice maniera, adesso va corretto il decreto, pure Italia con un emendamento. Prima che venga convertito in legge. Sì, sì, voi confidate a questo punto che dopo la dichiarazione di Paul McCartney, dopo che il ministro della cultura ha detto ha ragione Paul McCartney di fatto, perché il concerto in quel caso è stato annullato, non spostato, a questo punto dovrebbe intervenire un emendamento in fase di conversione legge del decreto Cura Italia che vi ridia i soldi, la diciamo brutalmente. Certo. Ma anche perché c'erano molte persone dall'estero che avevano preso il biglietto per Paul McCartney in Italia, il binomio Napoli-Lucca, due città stupende, e il concerto di Paul McCartney, ci sono state delle mail di molte persone straniere che veramente erano indignate, dalla Russia, dal Brasile, da Londra, dall'America, che hanno preso dei biglietti e insomma facciamo anche una figura barbina insomma all'estero, l'unico paese e non rimborsa, insomma. È l'Italia. Sì, questo l'abbiamo scoperto anche con ascoltatrici che manda a Londra a dire che a volte è anche una scelta che viene offerta al cliente, al consumatore, a dire vuoi lasciare, che ne so, metà dei soldi per aiutare il settore, oppure li vuoi tutti, oppure vuoi un voucher, cioè anche chi ci dice oppure vuoi un voucher, cioè dare una possibilità. A voi non ma è non piaciuto solo. questo imperativo, come si dice, esatto, in molti paesi hanno detto ok, hai speso 100, hai la possibilità di o avere i soldi indietro 100 o avere un voucher di 130 150, ecco, incentivare a prendere il voucher. Molte persone sul web, che come sai si sono tutti scatenati, hanno denunciato che gli sono arrivati i voucher non richiesti, o che comunque stanno arrivando delle mail molto Che concerto soprattutto? C'è anche bello il... c'è anche bello il concerto del voucher, cioè indicato? Cioè questo vale per un non concerto dello stesso promotore. Non è capitato a me, sarebbe stupendo. Questo non te lo so dire perché non è arrivato a me direttamente. Arriva uno spettacolo di Manera, un tour di Manera. Lo sapevo che stavi dicendo questo. Quando hai detto pensa, sapevo che stavi andando a parare lì. Tu l'avevi già pensato. Sapevo che avresti detto quella cosa. Ma non un concerto, un tour. Ma non basta nemmeno un tour. Di Manera, tutta la vita, tutta la vita dei miei spettacoli, forse. Era un voucher amaro. Sponsorizzato dall'Amaro, dall'Amaro Caporetto. Ce l'abbiamo ancora la pubblicità dell'Amaro Caporetto? Non lo so. Chiediamo non a Peter so, se trova so. La pubblicità non dell'Amaro Caporetto. Allora, facciamo così, ringraziamo Silvio Tedesca. Silvio, guarda che torniamo a occuparcene, vediamo. Domani forse avremo il promoter da Alessandro, chissà, spero che... Vediamo come si comporterà, nel caso vi avvisiamo a capire come risponderà. Vediamo se abbiamo la pubblicità dell'Amaro Caporetto andando al traffico. Chi lo sa, è il bello della diretta. Vai, traffico. C'è qualcosa che non va nella tua vita? Ti senti solo? Triste? Depresso? Hai i capelli deboli? Sottili? Sfibrati? Non riesci ad ottenere la tartaruga sulla pancia? Allora è giunto il momento di annegare tutti i dispiaceri nell'alcol dell'Amaro Caporetto. Amaro Caporetto, l'amaro di chi, dopo aver perso tutte le battaglie, ha già da tempo perso anche la guerra. Amaro Caporetto, gustalo mentre ti arrendi. Uno, nessuno, 100 Milan. Bravo Manera, condivido perfettamente il tuo punto di vista. Ne ho piene le tasche di tutto questo allarmismo, terrorismo. Dobbiamo prendere le precauzioni, però dobbiamo vivere. Every day is Monday. Manera, perché non colleghi la caldaia a Skype o Skype alla caldaia? Prova un po'. Questa non è male. Questa non è male. Tra l'altro, ecco, caro Leonardo, adesso avendo rimandato in onda il tuo spot finto dell'Amaro Caporetto. Ripartiranno le mail, perché tu lo sai che sono arrivate mail in passato di parenti che avevano nonni, avi che hanno combattuto gloriosamente, hanno preso parte alla battaglia di Caporetto nella prima guerra mondiale, dicendo questo spot è offensivo della memoria di mio nonno. Ecco. offensivo della memoria. Ecco. Dai, su. Ecco. Sono offensivo io e non sono offensivi quelli che hanno dedicato in tutte le città, piazze, anche a Milano, a Cadorna, che fu il responsabile, che mandò allo sbaraglio i soldati di Caporetto. Prendetevela con Cadorna, non con me. telefonate a Cadorna, scrivete a Cadorna, non a Manera. Però il tema è molto interessante perché ci riporta a quello di cui abbiamo discusso in apertura con Mario Calabresi. Questa è furia iconoclasta che, partendo dall'America dopo l'uccisione di George Floyd, si è impossessata di persone che abbattono le statue di Cristoforo Colombo e di altri schiavisti un po' meno famosi al mondo. Adesso a Milano è ripartita la questione, togliamo la statua di Montanelli perché durante la guerra in Abissinia comprò una dodicenne in sposa. Professor Franco Cardini, storico, buongiorno e grazie di essere qui. Buongiorno a voi. Come ne usciamo da questo tentativo di riscrivere la storia a colpi di abbattimenti di statue? Cosa ne pensa lei? Che non ne usciamo affatto, non ne usciremo mai, la storia è questa. La storia è ripensare continuamente, la storia è rivedere continuamente. Le statue sono state sempre erette e tutti hanno sempre saputo che erano delle balle e la glorificazione di certi personaggi, chi lo doveva sapere lo sapeva. E sono state sempre abbattute, non è mai successo niente di particolare, poi ogni tanto naturalmente la storia si increspa. E allora arrivano le guerre, arrivano le epidemie, arrivano le carestie, e insomma non si può mica sperare che il futuro sia tutto bello, pettinato, come quello che abbiamo avuto noi in alcuni anni, e io sono stato un privilegiato perché sono del 40, quindi sì, mi ricordo un po' di guerra quando ero molto piccolo, me la ricordo come un gioco, io giocavo con i ragazzi tedeschi, con i soldati tedeschi, giocavo con i partigiani, per me erano tutti dei bei ragazzi che giocavano, però noi siamo stati fortunati, fino all'altro ieri la nostra libera e felice Europa non è stata toccata da nulla, tanto è vero che noi ci siamo illusi, e qualcuno ci illudeva anche a scuola, che tutto il mondo stava diventando così bello, pacifico, democratico, ricco, felice. Poi ci siamo risvegliati, ci siamo accorti che non è più così. Ci hanno dato una bella botta con il Kosovo negli anni 90 e abbiamo detto, oh per Dio, ma questi stanno, ma questi stanno arrivando ai confini dell'Europa e fanno la guerra. Ma come mai? Ma le guerre non erano finite. Ma il mondo non era libero, non era pacifico. Sì, c'era qualche nazista, qualche comunista, qualche fanatico musulmano a giro, ma era spazzatura del passato. E invece no, la storia è questo. Quindi bisogna abituarsi. Bisogna abituarsi, però le chiedo, si sa la classica frase, la storia la scrivono i vincitori. Certo, Cristoforo Colombo, vissuto dai pochi eredi ormai delle popolazioni locali, indigene, i pelle rossa, come venivano chiamati in maniera sprezzante, e Cristoforo Colombo è stato, come dire, un genocida, addirittura il capo dei genocidari. Perché Winston Churchill, che ha fatto morire 4 milioni di bengalesi perché il grano serviva all'Inghilterra, il grano serviva a far mangiare gli inglesi, era sacrosanto, cioè c'era l'inglese, gli inglesi hanno potuto mangiare, non abbastanza perché si era in guerra, ma insomma si sono accontentati, e gli hanno anche fatto le statue. Ora però ci stanno un po', alcuni inglesi stanno ripensando e dicendo, ma se volessimo acquistare una visione un po' più ampia del mondo, non pensare sempre nello spicchio, nella fettina che ci riguarda egoisticamente, sì, sì, o se si preferisce patriotticamente, e beh, allora questo è stato un criminale. È stato un errore, ma che facciamo? Abbattiamo la statua? Perché sa, l'abbattimento io lo vedo legato a finisce la dittatura Ceausescu, abbattiamo la statua, no? Capisci? Quella è un'altra cosa. Quello, io capisco che nel caldo degli avvenimenti si possa fare queste cose, ma poi io personalmente, sia perché faccio lo storico di mestiere, amo la storia, penso che la storia non vada dimenticata, non vada rinnegata, ma vada semplicemente conosciuta meglio. Dopodiché E bisogna ricordarsi anche i nostri errori e magari le nostre infatuazioni del passato. Guardi, io capisco gli italiani che nei 43, nei 45 hanno abbattuto le statue del Duce, per carità. Però oggi come oggi, fra l'altro è molto bello, ci sta molto bene, l'obelisco a Mussolini davanti al Foro Italico, io mi ci metterei davanti a difenderlo se qualche sconsiderato arrivasse con la ruspa. Perché anche sì, quella è stata storia, anche i nostri errori, anche le nostre infatuazioni. E poi questo è un punto fondamentale, professore. Esatto, mettere un monumento vuol dire lodare la persona a cui è legato? Non è necessariamente questo, non è necessario questo legame. Monumentum viene da moneo. Moneo è appunto è la parola latina da cui viene il termine ammonisco. Ricordiamoci le delle cose. Esatto. Guardi, andiamo davanti, lasciamo fare il Duce, che sul Duce tutti si mettono a leticare. Andiamo davanti all'Ara Pacis Augusti a Roma, bellissimo monumento, bellissima iscrizione, bellissimo tutto. Augusto, a differenza di Giulio Cesare, che era un altro genocida, ha svuotato la Gallia. Augusto invece tutti dicono ma quant'era bello, quant'era buono, quant'era bravo. Leggiamo l'iscrizione dell'Ara Pacis. La sconfitta dell'esercito romano a Teutoburgo, quando Arminio e altri quattro pidocchiosi di Germani uscirono dalle foreste e fecero fuori tutte le quadrate legioni del console Varo, facendo quasi uscire di testa Augusto, che non era affatto quella brava persona, quello stinco di santo, che si dice. Ma queste cose sull'Ara Pacis, quando Augusto racconta le sue belle cose e dice ho fatto questo, ho fatto quell'altro, ho conquistato questo, ho conquistato quest'altro, ho bonificato, ho messo la pace al popolo romano, gli ho tolto le tasse, che poi non era nemmeno vero. Di Teutoburgo Augusto non dice nulla. Allora non era soltanto un criminale, un genocida, era anche un bugiardo, ebbene sì, sa quando ha cominciato la storia. La storia è uscita dalla preistoria. Quando si è cominciato, non a saper leggere e scrivere, perché lì si era già provato, ma quando si è cominciato a capire che bisognava tramandare la memoria, e allora pare sia stato un faraone egiziano, ma forse è stato un imperatore cinese, poi se ne frega, qualcuno sarà stato. Allora si è l'imperatore cinese o il faraone egiziano hanno detto, bene, adesso io scrivo le mie memorie, le faccio incidere, le faccio insegnare ai bambini oppure nei templi e tutti sapranno chi sono stato. E ha cominciato a scrivere delle bugie. I tedeschi egiziani sono pieni di bugie. Guardi, professore, professor Cardini, i cinesi sono pieni di bugie. Le do questa suggestione. Sì, professore, le do questa suggestione. Il sindaco di Londra, come mi suggerisce Miriam Lucchetti, Sadiq Khan, ha annunciato una rivisitazione di tutte le statue di Londra e anche dei nomi delle strade, e dicendo che tutti quei monumenti che sono legati alla schiavitù, diciamo, a possibili celebrazioni della schiavitù, dovrebbero essere rimossi. Monumenti imperialisti rimossi. D'altra parte dico, abbiamo per anni seminato, secondo me anche ipocritamente, le idee di democrazia, di uguaglianza, di libertà nelle teste dei bambini, no? Le hanno seminate anche nelle mie, sono attecchite poco, ma le avevano seminate. E per generazioni abbiamo detto questo. E ora ci meravigliamo se le generazioni attuali ci presentano il conto e ci dicono ma voi non siete democratici, ce l'avete con Hitler, ce l'avete con Stalin, allora come la mettiamo con Churchill che ha fatto morire di fame la gente? È del tutto normale. Sadiq Khan, se non sbaglio, forse sbaglio, ma Sadiq Khan è pakistano. Sì, di origine, sì. Lì ne hanno fatte di tutti i colori, però, gli inglesi e a quella gente lì. Lo scriveva già Esopo, o Esopo, come lo dico come vuole, se i leoni scrivessero la storia, sapete come ne uscirebbero gli uomini come genere umano? come dei mascalzoni, degli assassini, dei sadici. Io dico Esopo, sappi, sto leggendo, leggo tutti i giorni le favole di Esopo a mio figlio. Il mio amico Canfora mi picchia sempre sulle mani quando dico Esopo. Quindi, mannaggia, io sempre detto Esopo. Leonardo, Esopo. Perseo di sicuro, io da buon fiorentino dico Perseo. E regolarmente vengo picchiato sulle mani. Anche io dico Perseo non si Esopo. Mai di scoprire quanto siamo ignoranti. No, tutto questo è del tutto normale. Salì Canne rappresenta delle origini del suo popolo, certo, nei confronti, certo, degli inglesi. Abbiamo imparato che gli inglesi erano messi democrazia. Ricordiamoci quello che hanno fatto in India, quello che hanno fatto in certi paesi africani e quello che hanno fatto anche negli Stati Uniti d'America quando era colonia di Sua Maestà Britannica, perché il genocidio dei nordamericani l'hanno cominciato a fare gli inglesi e i francesi. Certo. Gli americani poi sono venuti buoni terzi e hanno finito l'opera. Praticamente l'Italia rossa non ci resta più nessuno. Gli ebrei, grazie a Dio, sono sopravvissuti a Hitler, ma di pelle rossa alla democrazia statunitense ne sono sopravvissuti veramente pochi. Sono malati, alcolizzati, eccetera. Facciamocene un pensierino su queste cose, perché altrimenti non ci arriviamo mai alla radice della storia. Allora dice: ma lei è revisionista? E certo che sono revisionista. La storia o è revisione o non è nulla. Anzi, è revisione continua. Storia, se mi dicessero, guardi, lei deve continuare soltanto a dire quello che hanno già detto altri. Benissimo, allora io sbanco tutte le migliaia di libri che ho a casa, le mie figlie sarebbero contentissime, anche il mio gatto, mi compro un Bignami e per il resto dei miei giorni, io ho 80 anni, ma insomma spero andare avanti ancora un po', per il resto dei miei giorni io recito il Bignami, come si recita il Vangelo. Il mitico Bignami, professor Cardini, noi la ringraziamo, insomma, Franco Cardini è secondo me un luminare della storia e poi insomma anche la sua capacità di divulgazione, divulgare oltre che di dire le proprie idee, la ringraziamo, insomma ha espresso dei pareri. Adesso magari se volete ne discutiamo dopo la borsa con voi, cosa ne pensate, insomma questa idea della storia che è revisione continua. Andiamo a sentire la borsa. Donna, vuoi far accettare il pesce a tuo figlio che lo rifiuta costantemente in modo pedante e irritante? Allora proponigli di assaggiare i bastoncini del sottotenente, i bastoncini tipo capitano, ma con il più ampio strato di panatura e la più irrisoria quantità di merluzzo, ideali anche per essere accettati da chi odia il pesce. Bastoncini del sottotenente, fan contenti la mamma, fan contenti i bambini, fan contenti i merluzzi. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta 1, nessuno, 100 Milan. È giusto restituire i soldi del biglietto, ma bisogna vedere se Paul McCartney il suo cachet l'ha già preso e se è pronto a restituirlo anche lui. Se Leo collegasse la caldaia a Skype o viceversa, è capace di far sparire la caldaia, Potrebbe succedere. A casa Bonetti, nipote del... Poi dopo chiamerebbe la zia Bonetti, ministra della famiglia, dicendo: zia, dai, ti prego, risolvimi la situazione, manda quelli del governo, esperti in tecnologie, manda qui una task force, e così risolverebbe all'italiana. Certo, io cerco all'italiana, sempre quella classica telefonata alla persona giusta. Esatto. Cerco di sfruttare le mie conoscenze. Ma sì, io non so come la pensi tu, ma riguardo alle statue, per esempio, mi chiedevo: se la statua di Montanelli non fosse mai stata eretta, oggi la si farebbe oppure no? Nel senso, devono prevalere gli aspetti giornalistici, eccetera, anche lavorativi, oppure gli aspetti etico-morali nell'erigere una statua? È un grande tema. Credo che se si ponesse la questione adesso, con questa polemica ritirata fuori, non si farebbe. Io sono dell'idea, come dici tu, che non è che quella statua lì celebra il fatto che quindi è giusto comprare una bambina di 12 anni un qualcosa che chiunque definirebbe violenza sessuale in qualsiasi contesto moderno. Quindi non è che lì si celebra Indro Montanelli per la figura che è stata dal punto di vista giornalistico. Per esempio, alcuni ci hanno segnalato che Elvira Banotti, che l'ha intervistata, nata ad Asmara, ha avuto un finale di carriera quando collaborava col Foglio, eccetera, in cui si scagliava moltissimo contro la comunità gay. Però uno mi dirà, infatti non c'è una statua di Elvira Banotti, ma non è che una parte di una vita, anche se piena di errori come questa certamente di Montanelli, debba inchiodarlo a dire quindi non si fa una statua. Penso così, cioè se no non si farebbe una statua a nessuno. Chi è che ha avuto una vita senza una macchia? Un personaggio storico avrà, però ci sono macchie e macchie. Adesso sposare una bambina di 12 anni è una bella macchiona grossa, che è una macchiona grossa, smacchiatore, secondo me. E come ci ha scritto Mini a Lucchetti, peraltro lui non ha mai chiesto scusa, cioè avesse detto sì, ho fatto questa cosa in passato, ma ora me ne dissocio perché è stata qualcosa di clamorosamente errato, allora si faceva, quindi mi sono fatto trascinare certo sarebbe stato diverso, una presa di distanza che non ha mai fatto Indro Montanelli. Detto questo, non lo so, andare a buttare giù una statua lo trovo sbagliato. Ci ha spiegato bene Cardini che, no, statua viene da ricordo, ricordare una persona, non per forza da monumento, ricordare. Esatto, il mondo. Sai io cosa farei? Ho la soluzione, anche in questo caso ho la soluzione. Cioè tu non hai soluzione per la stampante, non hai soluzione per la caldaia, per Skype, però hai le soluzioni per la zona rossa, chi ha ragione e chi no. E perché dai, prego. Ho una mente che si eleva al di sopra delle cose del vivere quotidiano. Certo. Allora, la mia soluzione, che credo possa mettere d'accordo tutti, è la seguente. Sì. Allora, manteniamo la statua di Montanelli, però sotto scriviamo giornalisti, eccetera, eccetera, ma ha fatto anche questa cosa, ha sposato ha una bambina che aveva cattive. 12 anni. Quindi rimane la statua, diventa veramente un monito, cioè come dire, questa persona che è stata rilevante nell'ambito, diciamo, nazionale, però ha fatto anche delle cose disgustose. E quindi in quel senso la statua, il monumento, diventa veramente una, un monito. Questa è la soluzione maniera che può mettere d'accordo tutti. Stefano da Parma invoca un nuovo personaggio di Manera, il luminare storico iperrevisionista, e non sarebbe male, solo che non so, prova a pensarci. C'è anche un ascoltatore che mi dice: come fai a paragonare l'abbattimento di Cristoforo Colombo alle statue di Bamiyan dei Buddha buttate giù dai talebani? Il contesto è diverso, lo so anch'io, i talebani sono fanatici, mentre sono persone democratiche quelle che in modo revisionista abbattono la statua di Cristoforo Colombo. Era per dire che l'immagine di una statua abbattuta mi ricorda la fine di una dittatura, appunto i talebani, cioè l'associo come immagine a quella roba lì, un po' forte, ecco, tutto qua. Arturo però ci chiama da Prato. Aspetta, sentiamo Arturo. Sì, pronto? Ma veramente, ecco, il programma è andato un po' avanti perché avevo chiamato in prima mattinata per dire la mia sulla mancata istituzione della zona rossa. Posso ma va dirla? Bene, ma certo, ma come no? Noi qua mettiamo insieme tante cose. Io ho fatto questa riflessione. E dirà che la competenza era sia dello Stato, e con la legge sulla sanità anche della regione potevano istituire queste zone rosse. E secondo me bisogna guardare la zona rossa a Codogno, chi l'aveva istituita, nel senso, se la zona rossa è stata istituita con un provvedimento del governo, mi sembra che anche le altre zone rosse dovesse essere fatta dal governo. Sì, ora hai delle competenze, segnalo, poi sì, i tribunali, sì, segnalo, e i giudici decideranno come meglio credono, però C'è un Arturo, precedente dovrebbe, diciamo, dare l'indirizzo. Esatto, c'è un altro precedente, Bonaccini, Emilia Romagna, intervistato tra l'altro dal vice direttore del Sole 24 Ore, dal nostro Alberto Orioli, in un incontro su internet questa mattina, ha detto: noi abbiamo istituito di notte la zona rossa e poi al mattino abbiamo avvisato il governo. Quindi, ecco, caso in cui invece è il Presidente di Regione autonomamente, quindi si ritorna alla questione, spetterebbe in primis al governo, ma la Regione lo può fare. Cioè, capite che da qui, io ve lo dico già, non se ne uscirà più. Se immaginate una sentenza in cui si dice il colpevole è lui o lei, non ci sarà mai in Italia, perché, vedete, può farlo, deve farlo il governo, ma può farlo anche la regione. Risultato: liberi tutti. Se io ribadisco che secondo me, se in primis lo deve fare il governo, il primo responsabile è il governo, e in secundis la regione. Quindi il primo responsabile è chi ha la responsabilità in primis. Vabbè, comunque, Ho la soluzione anche per questo. Io veramente, mi chiedo come mai non mi mettano a capo di una task force. Al posto di tua zia, al posto di Culau, di Paolo Roberto Culau. Ermanno Forlicesena, qua. Pronto, buongiorno. Sì, pronto. Io volevo intervenire su una cosa che però non c'entra poco con l'argomento che avete dibattuto fino ad ora. Era sull'applicazione Immuni, già tanto contestata. Sì. Un paio di giorni fa lei, commentando un WhatsApp audio di un radioascoltatore, ha detto che l'applicazione Immuni ha la geolocalizzazione come parametro necessario per il suo funzionamento. Sì, è vero, ho fatto un errore. Volevo appunto sottolineare chiedo questo. È già stato scoperto. Lo sta sottolineando lei, chiedo venia, effettivamente. Cioè, la Immuni non usa la geolocalizzazione. In effetti il sistema Android prevede che quando si attiva l'applicazione, per precisione, quando si attiva il Bluetooth, viene richiesta l'attivazione della geolocalizzazione, ma in effetti poi non viene usata. Sì, non viene usata, esatto, è vero, non viene usata e non vengono tenuti i dati. Ermanno, ha fatto bene, qua ragazzi, non puoi dire neanche le tue solite 15-20 cavolate al giorno che ti sgamano tutti. Ermanno, ha fatto bene, sottolineami, becco 4 in pagella e basta, studierò di più Immuni, ha ragione. Allora, andiamo un attimo a sentire le informazioni sul traffico, vai. 1, nessuno, 100 Milan. Come scrive il mio amico Vittorio Pezzuto su Facebook, ma ce lo scrive anche qualche ascoltatore, abbattiamo allora il Colosseo, simbolo universale della repressione schiavista. Vabbè, sì, tanto via tanto dovremmo abbattere anche il Colosseo, effettivamente. Io penso, quante atrocità sono state commesse nel Colosseo. Io penso che la mia soluzione sia un giusto compromesso. Scriviamo le cose buone e le cose cattive, poi diciamo però è stato rilevante per la storia. Io vorrei trovare qualcuno che è contrario a questa mia soluzione. Io penso quindi che secondo tutti questa soluzione uguale contraria si potrebbe mettere anche con la famosa celebre frase di Benigni, la statua a Hitler, dicendo ha fatto anche cose buone, un ponte, una strada, no? La applico in maniera uguale e contraria. Io mi riferisco alle statue, monumento già al male, ma ha fatto anche un ponte, ma una sì, strada. Guarda, cioè, monumento al male come monito ci starebbe, perché no? Sì, ricordatevi le schifezze che ha fatto. Certo. Chi è contrario alzi una mano. Nessuno si è alzato a dire io non sono ho d'accordo visto con Manera. Lucchetti, collegamento video, che ha alzato una mano in questo momento. Non so se è una tecnica Lucchetti, se sta esibendo, come dire, lasciatemi stare che sono impegnata con dei fogli, o forse alzava la mano proprio. Ma scusa, Auschwitz, il fatto che Auschwitz sia rimasto in piedi e sia ancora lì non è una specie di monumento certo al male. Certo, quindi c'è già il monumento al male. È inutile che tu mi deridi in modo stucchevole. Sei stucchevole in questo modo bene, di fare. Spostati, che è arrivato a portarci un po' di. Vabbè, allegria amara, un po' il clown Neronello. Buongiorno, il clown Neronello è con noi. Eccoci buongiorno qua. A tutti, sono il clown buongiorno. Neronello, l'amico dei bambini. Yup. Da quando c'è il coronavirus faccio il clown in smart working e attraverso il computer arrivo nelle case dei bambini e dico subito una bella battuta per far divertire tutti. Per esempio dico: bambini, sapete perché il sangue mi fa paura? Perché dentro il sangue ho paura di trovare i globulli bianchi e i globulli rossi. Non ci credo. È una bella battuta. Guardi, io rido per nervosismo. Da smascellarsi dalle risate. Appena detto questa battuta, i bimbi hanno cominciato a lamentarsi. Mi hanno detto di tutto: mollusco, bamboccio, smidollato, asintomatico. Pagliaccio anche. Anche. Ma è intervenuta la madre del festeggiato e mi ha detto: clown Neronello, avvicinati alla telecamera che porto il mio computer in camera da letto e controlliamo se sei veramente asintomatico. Queste signore, per risparmiare qualcosa sul costo di noi clown, sarebbero disposte a fare di tutto. Quando ho capito che avrei dovuto rinunciare al mio cachet, ho interrotto il piacevole intervallo e sono tornato dai bimbi per raccontare una delle mie favole. Le favole del clown Neronello, l'amico dei bambini. Yup! C'era una volta in un paese lontano, lontano, un uomo che aveva un cavallo di nome Furio, al quale era molto affezionato. Perché era un cavallo parlante e sapeva dare sempre dei buoni consigli. Per esempio, se l'uomo litigava con la moglie, il cavallo gli suggeriva: torna da lei con un fiore e fate pace. Se l'uomo aveva un momento di sconforto, il cavallo gli diceva: non abbatterti, vedrai che domani andrà meglio. Se l'uomo in una locanda notava una ragazza disponibile, il cavallo gli diceva: ricordati che a casa tua c'è tua moglie, che sicuramente non può vederti, perciò datti da fare con quella bella ragazza. Insomma, il cavallo Furio sapeva sempre trovare la parola giusta al momento giusto. Un giorno, però, il cavallo Furio si ammalò, gli venne l'influenza e da quel momento non riusciva più a dare buoni consigli perché la febbre, una febbre da cavallo, tra l'altro, gli impediva di essere lucido e il proprietario stava andando in rovina perché non sapeva più come comportarsi. Così vennero chiamati 3 medici per cercare di guarirlo. Il primo medico, di nome Giuliandro, diede al cavallo del fieno. Del fieno, ma il cavallo... Ecco, i nomi. Ma il cavallo non guarì. Il secondo medico, di nome Bovindo, diede al medico della biada, ma il cavallo non guarì. Al cavallo. Il terzo. Finché arrivò il terzo medico, Ortodonzio. Così chiamato a causa della sua dentatura complessa. Ortodonzio disse: questo caso è veramente complicato, devo rimanere solo con il cavallo. Allora il proprietario uscì e Ortodonzio, di soppiatto, introdusse nella stalla un altro cavallo che aveva fatto truccare in modo da essere identico a Furio e caricò il vero Furio su un carro che aveva predisposto all'uopo appena fuori dalla stalla. Poi Ortodonzio richiamò il proprietario e gli disse: ecco fatto, Furio è sembrato, ma gli ci vorrà ancora qualche giorno prima di tornare a parlare. Il proprietario, felicissimo, diede a Ortodonzio 50 monete d'oro, tutto quello che possedeva, immaginando che poi, con Furio guarito, sarebbero tornati anche i buoni affari. Invece il sosia di Furio, il cavallo sosia, non parlò mai e il suo padrone rimase poverissimo, mentre Ortodonzio, grazie alla sua furbizia, divenne ricchissimo grazie ai consigli di Furio, che nel frattempo era guarito da solo. E Ortodonzio così visse felice e contento, facendosi anche una bella risata. Qual è, bambini? La morale della favola: se nella vita vi fidate degli altri, andrete sempre incontro a grosse delusioni. Se invece cercate con furbizia di truffare il prossimo, avrete delle buone possibilità di vivere felici e contenti, proprio come Ortodonzio, un vero modello di vita. Arrivederci alla prossima favola del clown Neronello, l'amico dei bambini. Yup! Yup! Bene, bene, grazie Neronello. Salutiamo anche Ortodonzio. E salutiamo Stefano da Genova, ce la facciamo Stefano a concludere la trasmissione? Buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. Io volevo fare un quiz velocissimo. Io conoscevo la storia di Montanelli e sono anche un suo pseudo ammiratore con questa macchia nera. La domanda che mi faceva ascoltandovi, sapevo dalla storia della ragazza, della sposa, non sapevo che avesse avuto 3 figli da questa ragazza, ma di questa ragazza se ne è più saputo niente della moglie? C'è qualche notizia, qualcosa? No, non lui, 3 figli credo, no, poi leggevo oggi che la ragazza si è sposata con, quando lui è andato via, con un ascaro e ha avuto 3 figli e il primo di questi 3 figli, sapete come l'hanno chiamato? Indro. Questo leggevo oggi sul giornale, credo, quindi se, credo insomma, avrà fatto poi la sua vita sposandosi con un soldato, con un ascaro, insomma, non so molto di più, ma questo dicono i giornali. Va bene Stefano, questo per quel che riguarda la vicenda Indro Montanelli. Caro Leonardo, ci fermiamo qui insomma per oggi, però questa cosa è interessante, potremmo continuare, anche perché poi tu hai delle soluzioni, hai qualche tema sul quale domani vuoi proporci la tua soluzione, per la quale nessuno avrà nulla da ridire, qualche tema proprio pregnante del mondo. Ci penso e domani vi so dire. Facciamo così, se gli ascoltatori hanno dei problemi molto difficili come soluzione, sì, possono scrivere e io darò la soluzione immediata che possa fare contenti tutti. Ottimo, pensiamola bene, una bella rubrica tipo un problema per Manera, una roba, ma proprio soluzioni del mondo, cioè come, non so, risolvere il problema della carestia in Zimbabwe, sì, magari. E tu no, devono essere problemi che riguardano i comportamenti umani, però problemi che riguardano i comportamenti umani, tipo erigere o abbattere una statua, cose di questo tipo sulle quali io posso pronunciarmi in modo definitivo. Adesso la studiamo bene e domani la proponiamo. Se avete già qualche domanda di questo tipo, 100.000@radio24.it, comportamenti umani che vi fanno venire i dubbi, Leonardo Malera ha la risposta. A domani. Grazie. Uno, nessuno, 100.000.